Hola, hola, hola, hola. Che la, che la. A casa. Allo, allo, allo, allo. Ti sento, tu mi senti bello bene. Anch'io che mi toccavo stasera, l'ho comprato ieri sera, e 1058 nuovo, 19 euro, stazionale 1 e 1, perfetta l'antenna adesso, eh. C'avevo un cavo di cazzo, c'avevo la verità, e quindi adesso quello me lo tengo di riserva per fare le prove più che altro. Se ho provato un'antenna, me la lascio e basta. Adesso è a posto, grazie a Dio. Ho cambiato le 1058 della Mantova, l'ho messo nuovo, e quello del 58 della Mantova l'ho messo qua, e quindi è a posto. Tutto a posto. Dimmi, sta arrivando. Appena fa bel tempo lo fa. Quando vuoi farlo non c'è problema. Io sono seduto poco fa sul tetto, mi ha sistemato tutto. Adesso dopo vado nello spi, piglio un paio di birre e me ne porto a casa. È appunto per quello, è quello che devo fare. No, mi hanno messo fuoco a Santa Maria a me. Tanto sono tutti morti. Tutti morti sono, tutti morti, cazzo. A casa non c'è più nessuno. Droga di dare. Quello che si mangia a questo filà, lui non ce l'ha fatta. Oppure lui se ci vogliono un po' più di speranza. Adesso io ando a furare un po' di materiale elettronico, cazzo, e almeno sono apposta, almeno passo l'ora stasera. Allora lo fa Vidia, davvero, tu cosa fai? E io lo sento a Gio Maria, visto vai, già si fa vivo, visto vai. Che tecnico sei diventato? Ma quando? Hai fatto bene, grazie, hai fatto bene, l'hanno preceduto. Tecnico, non lo sapevo, ma uno che fa il tecnico si deve ingegnare, no, a aggiustarlo. Ti devi fare la ganna. Allora c'hanno un buono stipendio adesso, così è. Vero è, lascia fare a futtidini, non c'è problema. Come ascolti a me, sono con la cosa adesso, col cavo nuovo, con la direttiva va bene? sento io. Io non la sento. Sicuro, non mi sente. Guarda, sono io, quindi sono problemi suoi quelli adesso, non sono problemi miei. Il cavo è nuovo, quindi a un certo punto non cambia nulla. Dì che si metta a posto, sei in gabinetto, non lo so. Dì che mi dai soldi e mi metto a posto tutto. Sì, domani. Allora sì. Altrimenti io non c'ho stazionale, sono a posto adesso. Sto uscendo con la direttiva, figurati. Non sono con la verticale, sono con la direttiva. Ho cambiato il cavo, l'ho messo nuovo. Grazie a Dio, adesso è a posto. Poco fa, gli altri giorni invece andava per i fatti suoi. A un certo punto va a fanculo, almeno ho cambiato il cavo e sono tranquillo. La canna UG2, non lo sento. E adesso devo collegarmi a Monte Oro, devo collegarmi, dopo lo sento io, capito? Vado ad arrivare l'estate, mi collego a Monte Oro e lo sento dopo. Aspetta due minuti, aspetta. Guarda lei cosa cambia, è a piano. F, nella B. Mormito se Luca. Mangiando sai, Giomani? Ah? Mangiando sai. Io non mangio a quest'ora, no. A quest'ora mi sveglio io. Io mi ho bevuto il caffè e mi ho mangiato una formaggina. Hai fatto bene. Se vuoi un po' di dolori, te ne posso dare un po'. No, la capisci, la sera mi ha rimbogliato una bustina. Faccio la casetta. Sai cosa ti perdi, non lo sai. Io mi volevo alleggerire e darla a te. Se ne vuoi un po' te li spedisco, ti rimando a te. Grazie, mi ascolti. Che invece scialbizzato, roba la macchina. Hola, grazie, 1, 3, 4, 5, 6, prova. E ieri perché non sei entrato, ieri sera? C'era gente, era buio. Era negli anni 10, manco 4, non era scelto. Ora. Solo a solo erano. Eravamo solo soletti. Così che non c'era nessun altro. Non è entrato nessuno. Ma mi sa che pure no che si... Vabbè, chi c'entra nella luce? Marino, Sole, Cotto, Battiglio, No, è entrato tardi, mi sembra che erano 7:30, Tore. Siamo stati 10 minuti dopo, ho chiuso, me ne sono andato. Chi c'è? Tu ti guarda la sede, un'altra la vacca, manco un cane, vedi? Nulla, niente di niente, e tutta la mattina sul tavolo. Ma se tu se fosse stato acceso quello tuo, avessi sentito la portante mia e la chiamata, invece non l'hai sentita, vuol dire che era spento. No, ho sentito due volte, ha chiamato e non ha ripugio nessuno, c'erano due questo rumasano io per cucina, ho finito un pizzo di puri alle 10:30. E mi ho preparato pure un pranzo. Allora non dici, ma non fatta profitto. Mazzano, ogni tanto da vedere compito importante, però no, non ho chiamato, una volta solo ho chiamato, non mi ha risposto ed era acceso fino a luna l'ho spento e me ne sono andato a mangiare, mi ha acceso adesso. Mi ascolti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, oggi non ci sono andato, che non ci andava oggi, e allora ero tutta la mattina in casa. Sono sceso giù e mi sono fatto una passeggiatina dietro qua in giardino, chiacchierando con un altro, una mezz'oretta, dopo sono salito, riacceso, ho chiamato e non mi ha risposto nessuno. A 9:50, ho detto, ma adesso me lo vado a mangiare, e così ho fatto. E boh. Mi ascolti adesso, 1, 3, 4, 5, 6. Sì, mi ascolti adesso, mi ascolti bene, sì. Prova! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì che ti sento, Gian Maria, lo senti tanto? Non lo sento, io non lo sento, aspetta, provo a cambiare, vado in sala a vedere un po' se lo sento, però c'è freddo lì, vado un attimino e dopo ritorno qua, fa una prova, Antone, aspetta che va in salone a vedere se ti sento. Ehi, d'accordo, adesso io mi ho messo il cavo nuovo alla B26, alla Mantova, quindi a un certo punto poi mi rimango un altro cavo, quello è del coso, se mi sto sbagliando io, aspetta, perché c'ho due cavi, ho quattro cavi in pratica, aspetta. Ci sei, Corvo? Il covo è sparito, dopo gli hanno messo fuoco a Santa Maria, c'è fuoco in Kulok. Io già ci sono, Gio Maria, aspetta che ci spostiamo a vedere se ti senti. Gio Maria, lo sì. Fallo finire avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso già ti sento, a fondo scala. Ho cambiato il cavo, visto, Lascio il cavo giusto di 58. Dritto all'apparato, la tavola se avevo il cavo, quello rigido, è un casino, era. Non andava bene. Adesso già va bene. Ti sento bene adesso. C'è freddo qua adesso, Torno all'altra parte, Antonè, vai. Io va bene, adesso sto con la portatile, già ti sento bene. Sto con la verticale. Antonè, sto scorreggiando. E non credo proprio che sono scorreggiato. Cro. Signor Corvo, ci sei, signor Corvo. Non ci vai, sono stato male a controllarti. Non sai che ti mettono fuoco anche a te, già l'hai fatto la fine lì a Santa Maria, mettiti la roba, per carità. Un togliaio lì, tutto negri. Tutti si denunciano uno con l'altro. Cosa è, dai, signor Corvo? Ma non mi dà paura, noi se mi deve venire a passo. Beh, lì sono fatti così, capito, non hai capito. La gelosia li ammazzano con l'altro. A solo con chi stai parlando? Con un becchino che c'era poco fa e si è sparito, evidentemente l'hanno chiamato il vigile del fuoco a spegnere l'incendio giù a Santa Maria, cosa ne so, l'avevano messo fuoco alla... dove mettere la modalità sua. Ok, avanti. Adesso mi senti bene? Sì, sono a casa. ho cambiato cavo e sembra a posto adesso, almeno c'è un rumore stazionale, una volta è un casino quel cavo rigido, per carità. Ah, mi senti, grazie. È sparito. Non lo sento io, Non lo senti? A te sì, a quell'altro. Vabbè, vabbè, a me sì, a Gio Maria già lo dovessi sentire, ti ha chiamato. A Gio Maria già lo sento. L'altro non c'è, è sparito, è fuggito. Come gli ho detto che gli hanno messo fuoco a cosa, alla Santa Maria, alle cose sue, è sparito. Sarà andato a spegnersi il fuoco. Si è stato andato a controllare, non sai che gli amici suoi gli mettono fuoco lì a Santa Maria, tanto già lo possono vedere bene già. Ma con quell'occhiata possono vedere. Certo che lì dentro c'è un casino, per carità. A fare i suoi sono basti a farsi i cazzi suoi uno quando è. Quando c'è un qualcosa. Invece non si fa mai i cazzi suoi lui, hai capito? Vai a mettere fuoco. E quindi prima o poi ci passa anche lui. Già c'è passato quello che faceva gli ischi lì. Adesso ci passa anche lui, ci passa. E carica, ma mi ha lampato tanto lui. Tu? Sta tranquillo, non ci vuole molto che lì ci passerà il comune e ci butterà via tutto, te lo dico io. Sequestrerà tutto, tutto quello che c'è dentro, per prendere con le ruspe. Sequestra tutto, ti lampa tutta la mondezza. Perché non c'è un punto che non sia normale lì, capito? Sono tutti abusivi, quindi vedrai la scena tu, perché ormai il comune si è stufato di andare a spegnere incendi e metterci ci sono i negri, lavorano in nero e cose del genere, capito? Adesso tu vedrai che lì ci passerà la mafragana, ci passerà, te lo dico io, almeno fa pulizia, era ora, sono 20 anni lì che cazzo, è un casino, un troiaio lì. Ma è normale, ci buttano fuori a tutti. Speriamo che li mettano, si lappano il tutto, la mondezza va a fanculo. Almeno fanno qualcosa di buono, almeno per il pullman e per i cittadini. Grazie, mi senti? Giovanni ti stava chiamando, me. Non lo sento, lui. Non si sente, Giovanni, se mi stai ascoltando, tu? E adesso mi senti? Adesso sì, prova. Non ti sentono. Non ha parlato ancora. No, adesso mi senti. E tu? E boh, io non l'ho inteso, ma cosa hai sentito tu? Io non l'ho sentito. Faccio un attimo di bianco, dai, già arrivo subito. 5 minuti. Ehi, ok. Avanti. E adesso mi senti? Adesso sì. Sono con quel portatilino sono, che lo sto provando. Quello doveva venire a prendere se non è venuto. Boh. Anche a me. Eia. Ma è come vai, non vedi cosa fa, non ci senti. Non ho sentito un passaggio in buio. Oh, mi senti? Adesso sì. E Antonello non mi sente però, Antonello. Dimmi, sono qua. E beh, mi senti, Antonello? Basso, sì, di segnale anche il radio. Perché sulla parte dietro, capito? Forse per quello. Comunque, ti ascoltamelo quello. Va bene. Sì, basso, ma già ti sento perlomeno. Ehi, ho ripreso i cazzari, ho preso tutto. Ok, già va bene, allora. Ho capito, cosa hai detto? Cosa hai detto, grazie, dimmi. Grazie. Ehi. Beh, adesso bene mi senti. Adesso. Ok, però non sento Antonello, che sono dietro adesso. Antonello, lo sento. No, da questa posizione no. Aspetta, sto chiamando. Antonello, entrate. Ehi, entro so dopo, grazie, c'è gente. Mangiato, la merenda l'ha fatto. Ma non mi cascogno mai. E tu tieni la targa sola. Ma non mi dicete. E dirla a Graziano. Io mi sto guardando internet qua. Stai leggendo un buchito. E mai? Tabala. Lo senti? Ah, lo senti? A bocca biere fammi bene. Quanta? 4 250. Chi è che sta parlando a voce a bocca piena? Vergine d'oliva di ottima qualità, euro 8. Benissimo. Ma non penso che sia buono come l'abbiamo noi, non credo, guarda. Questa è non di ultima qualità, non di più. Questo è giallo verde, verde giallo. Vergine d'oliva di ottima qualità, 1,81 litro. Questo è verdone, questo che abbiamo noi, è buonissimo, ma se vuol dire, non è neanche piccante, nulla, non si brucia la gola, niente, buono, buono, buono. E anche lui è buono, moralissimo, che l'ha assaggiato. Oh, lui è vicino a quello, Più buono, grazie, Tu è buono lo stesso, già fatto fuori, già una di... Siamo un gribato. Ma questo qua è veramente buono. Io voglio vicino a quello. Ho capito, vai, grazie. Ciao, Battiglio. Ehi, basta, ti ho sentito. Avaro mio, mi devi trattare. Un po' da dolce. A chi mi devi fare fissamente all'altra spremuta. Ehi, buonasera, grazie, buonasera. Sicuro. Non sono problemi, se tu lo vuoi già ce n'è. Extravergine d'oliva. Super buono, super verdone. A 6 euro è caro. Abbiamo un prezzo di quello, non mi trovi, sta tranquillo, se no fai 7, 8. Ciao Bacchi, buonasera. Buonasera Luca, ho salutato poco fa e risaluto ancora. Capito, hai l'olio buono c'è Graziano, andiamo a assaggiarlo. C'è anche Bomponi, avanti Bomponi. Ehi, buonasera a tutti, ben ascoltati. Non ascolta Bomponi, avanti. No, no, stasera non l'ascolto, ieri sera lo ascoltavo, stasera no. Sento Graziano a Bombugno, sono comandante Nino, non sono io su. Tu lo ascolti un po', Bacchizio. Non lo ascolta Bacchigio, non lo ascolto solo mia. Graziano, a te. Basta, non sento nessun altro. Sta parito. Cioè, qua... A due scope. Quasi da Gio Maria, molte volte non si sento. No, io ho cambiato il cavo, io adesso sto stazionando non più. Cioè, il cavo Luigi l'ho eliminato, quello 65 ohm. Ho messo quello di 58 e è a posto adesso. A quanto è il cavo? A quanto è in studio? Quanto costa? 19 euro l'ho pagato, 25 metri di cavo e 2 PL in bacchelite. Ho capito la bomba. Ho pagato 19 euro, 2 PL in bacchelite, 2,50 l'uno e 25 metri di 1,58. No. Da Fusaro. 20 euro, così è? 25. Ah, 25, vabbè. Il cavo, vabbè, quant'è il metro? 80? Di meno dovrebbe essere, perché in pratica i PL sono 2,50 l'uno. Quindi sono 5 euro di PL. Quindi ho pagato 20 euro di cavo, là. Ah, 20 euro di cavo, sì. Ma sono 25 metri, balò. 25 metri infatti sono, sì, di cavo. 11,58. Ho capito. Vabbè, dai, per me io mi assento 10 minuti, un quarto d'ora, poi entro e vi saluto, mi devo capire lavare e cambiare e uscire. Stasera mi tocca l'uscita. Fai con comodo, non c'è problema. Mi sono poco fa, un becille che ha vinto la spesa, boh. Ah, gioco preso come cazzo ha fatto, ma io spendo 50-100 euro alla volta di spesa di aerospino, ma hai vinto un cazzo. Questa qui... Nome e cognome ha vinto la spesa gratis, boh. Pure noi, Pompone ne stava parlando. Mi ha dato una cazzata, una borsa, non c'è niente dentro, ma l'ho vista. Maria l'ha speso ieri 50 e più euro, mica ho vinto. Altra volta lo stesso, altre 30, non so bucato, ma mai vinto. Altrettanto io, non ho vinto nulla, neanche io, figurati tu. Quindi... Davanti a me, mi hai capito? L'ho chiamata per nome, nome e cognome, dice complimenti, ha vinto la spesa, dice, vai a fanculo, ho detto da me. vabbè. Avanti, grazie a... Tu lo senti a Pomponio, la senti a Bacchisio. Certo, 20 euro di spesa ha vinto. Cosa adesso? Quanto bisogna vincere? Fatto sta che questa culo l'ha vinto da 5 minuti prima di me nemmeno. No, la cassa che ti dice che è il vincitore. Ogni tanto gli scontri ti dice il vincitore. Dai, mi assento, così fa tardi. Ci sono i soliti paracuglia, lo sai, che vinco di culo, cazzo. Magari prendo 10 euro di spesa e vinco 10 euro di spesa. Me la fan culo a loro. Io lo so. Dove, Graziano? Alle 2:15. Hai un centesimo, non hai sempre dato, non va impigliato. Io ho sempre dato, Graziano, non ho mai vinto nulla. Io ho vinto 25 euro, me li sono subito mangiati. Mica li ho regalati a quelli, a pigliare altre gatte e vinci, no? Mi sono fatto la spesa. Una volta solo ho vinto, cara, una volta solo, adesso non più. Allora vedi il Maccanna, ci ho trovato a giocare, se avessi cosa mi sciaccando. Se non ho vinto nulla, non mi occupo più. pizzeria che c'era nella via di casa, no? Calimero, che vendeva i pesci in via Rosello. Sono andato a prendere la pizza la sera e mi ha detto, cioè io ho quasi un numero di zero, mi è rimasto un numero di zero, e cioè sono rimasto, e sono 26, e tu non mi rovati, è il giorno che sono nato io, e l'ho giocato. Arrivo a casa, ho detto, Marco, vai trovare la strada della lotta, se ho vinto, se poi la abbiamo preso, oh tanto non ho vinto nulla. Primo premio c'erano 3 kg di aragoste, lì si è congelata. E vabbè, hai tu, Sara che sto facendo, andate calando. Arrivo a casa, venire alla stazione del lotto e ha già vinto il primo premio, lo telefoneggio, Marco, il primo premio ho vinto, sto venendo a prenderlo. Wow, vi credo, e tu sto arrivando i numeri. Sono andato, ho buttato il numero, e tu dammi tutti in darito subito subito che ha già vinto. Stavo parlando con Simona, dimmi tutto. Sì, la scusa di Simona, di chi eri successo? No, no, sai cos'è il problema? Ho fatto questa specie di attivazione. In pratica c'ho 2 carte, cioè se io spendo 15 euro, pago 2 carte, pago. Attivazione di 2 carte, quella che ho preso io e quella che c'ha Simona. È capito un 15 euro. Quando in pratica finisce una, finisce anche l'altra. Ma come sapevo, me ne sono accorto adesso. Cioè in pratica io, tra una carta e l'altra, è come se io ci avessi il baracchino che parlo, capito? Io parlo solamente con Simona, ci abbiamo due numeri di differenti, però non pago niente, hai capito? Ti sto dicendo che oggi ho caricato la SIM di Simona e funziona anche l'altra SIM. Tutti e due funzionano assieme, hai capito? Sono collegati assieme tutti e due le SIM. E quindi adesso uso quella SIM, me la metto nel mio telefono e utilizzo quella SIM. Intanto il mio telefono è accetta 2 SIM, quindi a un certo punto mi conviene di più. Per telefonare uso quella lì per lei e l'altra la uso per me, cioè in pratica per i fatti miei. tutto lì. Ma senta Antonello, no, grazie. Ma lui non mi sente a me. Chiedi se mi sente. Tu arrivi segnale 8, quindi io a lui non lo sento per niente, nulla. Non so problemi miei, la verità, perché io quel re, cioè il stazionale non ne ho, ho cambiato cavo e quindi sono a posto, ho cambiato le... il cavo è nuovo per l'antenna che sto usando e quindi ti sentate benissimo, tu sei segnale 8, figurati tu, lui proprio non arriva a niente, deve essere che ha problemi lui. Dimmi grazie, non lo senti Antonello, no? Dimmi che mette l'antenna, che deve essere col gommino, deve essere. Guarda che c'è la direttiva lì, a me sta pensando molto. Oh, io non lo so, tu come mi ascolti perché grazie? Le orecchie. Adesso metto il gommino. E infatti tu sei 8, figurati, sei aumentato, ho cambiato il cavo oggi. Sono sento per quello. Ma credo ci vuole un'antenna nuova, ci vuole, è inutile stare a perdere tempo. Si mette un'antenna nuova e tranquillo. Buttate via tutto! Magari, dimmi Giovanni, tu sei proprio scala qua. Perché io sono forte, capito, sotto accetto, sempre. Ah, ciao Giulio, non sei Giovanni. Sei fondo scala, beh, è migliorato Giulio, ho cambiato il cavo. Io ti ho sempre sentito bene, dunque, e adesso ti sento ultra bene, ugualmente, perciò non ci sono problemi. Bacchisio che c'ha problemi con quell'antenna che sta usando. Bacchisio, cambia antenna, mettiti un'antenna come si deve, è inutile stare a perdere tempo così. Toscala, da me. Bacchisio, io ti sento comunque, ciao, grazie. Ciao Giulio. Giulio, buonasera. Vediamo se mi ascolta. Aspetta che c'è Bacchi, avanti Bacchi. Avanti Bacchi. Bacchi, non ti senti Antonello, evidentemente. Ciao Bacchi, ciao Graziano. Antonello, hai sentito Bacchisio che ha cambiato antenna? Nulla, non lo sento per niente, non devo dire nulla. Sento a tutti, sento a Luca che arriva benissimo. Tranne che Bacchisio, non so cosa diavolo ha combinato. Cosa ha combinato? Niente, ha messo un gommino anziché l'antenna. Ecco cosa ha combinato. Bacchi, aiuto, canta. Che il gommino, tu mi ascolti Giulio, se mi hai risposto mi senti, vuol dire. Già ti ascolto. Adesso sei più basso di prima, ti sentivo molto meglio. Però già ti ascolto ugualmente. Che adesso ho messo il gommino, lo fai con l'antenna. Capito? Perché stavo provando per se mi sentiva Antonello. Ma l'antenna va molto meglio, Bacchi, questo vabbè, io ripeto, ti sento lo stesso, basso ma ti sento, ma prima arrivavi benissimo, adesso naturalmente un po' meno col gommino. Va bene, dai, cambia di nuovo Bacchi, metti di nuovo l'antenna. Grazie a Nidu. Io cosa sento 7 e 8 di segnale, ma chi sono? Sento tutti gli altri ma lui no. È strano la cosa, non so che antenna stia usando, ma non sta uscendo per niente. Ma il più forte sono io, dite Antonello. Sto scherzando, cosa vuoi che me ne frega a me? Non è che sei più forte, non c'entra niente quello. Magari l'antenna che sta usando Bacchisio non serve a niente, niente di strano. Magari si mettono un'antenna di macchina lì, spiazzata in un paletto esce bene, capito? Ehi, vabbè, quello sì. Ci vuole la posizione, se non c'è la posizione buona non c'è niente da fare. Il problema è quello. Io col gommino, dal centro del letto al primo piano, arrivo come arrivo, da te e dappertutto. Per cui vedi bene che se mi sposto di un metro non mi senti più, o se mi senti molto basso. Esatto, sì, è così. Perciò c'è poco da fare, è utile stare lì. Facciamo noi tante prove, ma quando non c'è la possibilità e il varco giusto dove passare la radiofrequenza in maniera decente, non c'è niente da fare. Per cui il gommino è questo, poi l'antenna è un altro discorso. Allora, già è vero. È a Londra. E beh, ma chi ha cambiato mai questa antenna? Io ho cambiato, vedi adesso. Adesso arrivi benissimo. Prima ti sentivo ugualmente, ma adesso arrivi benissimo. Con la B maiuscola. E beh, che sa, porcetti altri ne hai. Guarda che quello lì è indigesto, mi, quel porcetto che mi hai mandato la fotografia l'altro giorno. Era arrabbiato, era, è indigesto quello lì. Anche non hai buttato su un piede, burro, già che vedi. È il rasino maculino, il rasino, così faceva il ballo del... ecco qua, qua. Ehi, già lo so che è buono, cazzo. Ce l'avevo anch'io quel giorno, ce l'avevo anch'io. Adesso ce n'è rimasto quasi la metà e ce l'abbiamo nel congelatore. Probabilmente domenica mia moglie lo cucina, sicuramente. Non è la metà intera, però ce l'ha anche un pezzo, insomma, ecco. Per cui, per noi, viene in abbondanza. Ecco il fiocchetto, ecco il rossetto anche. Il capretto, vabbè. Quello già è vero, già va bene. No. Domani, indovina che cosa ho domani. C'è roba di mare, roba di mare. Domani ho polpi. Polpi e pasta ravioli. Li ho visti anche oggi, c'erano lì a Predanieta, di fronte al mercato, di fronte al fornitore a Predanieta, dai. Al mercato ortofrutticolo c'era uno con la macchina, con lo sportellone aperto, gli ha messo un paio di cassette fuori dalla macchina, anche patate aveva, queste cose qua. Quando passa la polizia da voi fuggi. Fatto bene, sono buoni i carciupi, caspita, contengono ferro. Fai bacchì, aiuto, canta bene. Ferro e alluminio, contengono anche alluminio, dunque una lega che il graziano può vendere con prezzo. Allora bisogna stare attento quando passa davanti a Marcello, non sia che ti sequestra, non si sa mai. Si mangi un po' di cazzoppa, hai tanto ferro, poi passi lì vicino a Marcedo, in via del Porto Torres e ti si qui treggia. Un pugnaggio cazzoppa, è sbagliato se ce lo fanno. Non ne ho grazie a carciuffi, non è il posto di carciuffi. I carciuffi hanno le spine, pungono. Vabbè, così è. Antonio, allora hai cambiato il capo questa antenna? Addirittura ho cambiato il cavo, non è possibile stare con quel cavo lì, con quello rigido, capito? Gli ho messo di 58, è perfetta. Tanto l'aria è 1 e 1, non si muove nemmeno l'antenna. Il cavo infatti l'ho lasciato solamente per fare le prove, nel caso c'ho qualche antenna da provare, la lascio così com'è. Hai capito? Tutto lì. Sono già un regalo al limite. è del C59, figurati tu. Ho capito, sì. Vabbè, a qualcuno servirà, se ce l'hai, visto considerato, per buttarlo, a qualcuno servirà, meglio così. E anch'io già ne ho di cavo, io ho l'RG8, questo, pensa, ancora buono, è nuovo, ma ne avrò, dunque, era un pezzo, una ventina di metri, e poi ne ho un altro che è 8 metri di lunghezza, per cui va bene così. Però ce l'ho così in bottega, messo da parte, l'ho conservato e tanto non me ne porto niente. Vabbè, quello sì, c'hai ragione anche tu. Ma io ho più che altro, l'ho comprato ieri, ho pagato 19 euro, 2 PL, il cavo, figurati, e quindi 19 euro, a un certo punto mi sono andato anche bene. 2,50 ogni PL, quindi ho pagato 20 euro il cavo, va bene, da fusare. Figurati, no, io l'avevo preso un anno fa più o meno, forse anche di più di un anno e mezzo forse, avevo preso la Camille quando avevo piazzato la Mantova, poi adesso lo sto utilizzando in questo dipolo che ho autocostruito, sempre tipo Game Master, il dipolo, no? Un'antenna proprio così. Infatti l'ho truccata, nella bobina ci ho messo il nastro rosso per far vedere che era Game Master. Invece è un'autocostruita o Antonio. Io già va bene, a voi, ci mancherebbe. Se funziona bene lasciala così, a fotti dilli. Funziona bene, benissimo. Guarda che due giorni fa ho parlato anche con Tenerife, ti puoi immaginare. C'era un po' di propagazione sul canale 14, era. Alla prima chiamata che gli ho fatto, ecco, nonostante che l'antenna è bassa, perché ce l'ho nel terrazzino, nella parte bassa, un metro e venti di palo, non di più, dal pavimento, e l'ho attaccata lì, perché l'avevo messa lì perché mi serviva per fare le prove, no? Per vedere se era riuscita. Al primo colpo è riuscita, poi sono stato fortunato, oppure ho fatto bene le misure e funziona benissimo. La bobina, siccome la bobina è con l'H155, no? Però per truccarla l'ho rivestita col nastro isolante rosso. E sembra la Game Master, sembra, Antonio. Meglio così, a un certo punto, vabbè. Non è che per pensare che cazzo una canna da pesca in un terrazzino così, se no te ne scende di tanto in terra, te ne scende. Allora va bene sopra un tetto, bene piazzata, con una staffetta. Va bene, là. Ok, ripiglia. Adesso sono qua, che sto facendo cosa adesso, là? Giulio, mi ascolti? Sì, avanti. Mi ascolti a me, sì. Avanti, chi mi stava chiamando? Luca, sono giù, mi ascolti? Non rispondi più. Giulio, mi ascolti? Sì, che ti ascolto. Ciao Luca, avanti. Prima ero, lì vicino al bagno, dall'altra parte del palazzo. Qua sono in camera da letto, forse qua mi ascolti meglio. Qui ti ascolto benissimo, ti ascolto Luca, perfetto, veramente. Avanti grazie a. Comunque ciao Giulio, avanti grazie a. Sono dalla parte tua. Poco fa ero dalla parte lì, zona vicino al bagno, dai. Ah, sono dalla parte tua. Ehi, avanti Bacchi. Luca, ti ho di bene, sì, ma una bomba. A Giulio, chiedi a Antonello delle cose nel Roswell, mi segna la frequenza 44 60 84. Il Roswell ti segna 60 84, cosa che ripeti che non ho capito bene. Mi segna 44 60 84. Antonè, se ci sei? Dimmi tutto. Ha detto Bacchisio che il Roswell tu dice che le segna 44 60 84 o 64, adesso non ricordo bene. Cosa vuol dire? Cosa ne so io? 60 84, Non capiscono questa cosa del Roswell. Nel Roswell deve essere che c'è la frequenza, quella lì deve essere. Oh, ma chi? A cosa ti riferisci? La frequenza? Sì, è la frequenza che mi segna il blocco, la frequenza che sta uscendo. È stazionale 102, capito? Però la frequenza mi segna 44, 60, 84. Sentito, Antonè, lui ha messo il rosmetro e le sta segnando. Tre frequenze le sta segnando. 40, 60, 84. E stazionale 2, mi sembra che ha detto. Gli do il rosmetro mio, cosa vuoi che dica? Almeno si controlla le stazionali, perché io questo non capisco la verità. Quel rosmetro che c'ha lui, non so cosa che rosmetro abbia preso, la verità. Io ce l'ho il rosmetro, viene qua due minuti, se lo prende, gli faccio vedere come funziona e controlla. Altro gli posso dire. Allora, lui ha un rosmetro che le segna anche la frequenza, tipo analizzatore di antenna, capito? E le sta segnando quelle tre frequenze, quell'antenna le segna quelle tre frequenze. Sì, andata di casino a capirlo. Cocco, una nulla. Così è Bachi, ti risuona a te, quell'antenna risuona in tre frequenze, così. Questo rosmetro dà tre frequenze, ti dà la frequenza dell'apparato che sta uscendo, la frequenza di antenna e il rosmetro. Il rosmetro è 102. Ah, ecco. Allora, 102 di stazionaria o Antonè. E le segna due frequenze, le sta segnando. Evidentemente quell'antenna allora non è proprio perfettamente in isonda o bachi, non lo so. Le misure devi rispettare per avere la frequenza giusta in questa frequenza qua. Te l'avevo detto come deve essere, tre radiali da 18 e quello centrale anche quello da 18, oppure quello centrale 67 e anche gli altri 67, un'onda intera. No, io ho i radiali da 30 e lo tiro da 64. Quello, il discorso è quello, Bachi, le misure non corrispondono. Evidentemente vuole tarata bene. Ehi, aspetta che vado su adesso. Se mi sposto una qui vado nella frontella. Ok. Se non fa il calcolo, ho capito, o Antonè, lui ha fatto 30 in radiali e 64 quello centrale ha fatto per l'antenna e evidentemente non le risuona bene. Certo che non le risuona bene per niente, scusa. A un certo punto se pigliamo bazooka, gli mettiamo 18 metri di cavo e rame dentro, per dire, e poi agganciamo la massa. Era a posto. E infatti, oppure si compra la X30 della Diamond ed è a posto, tranquillo e pacifico. E anche se è di diversa frequenza, perché è VU, e però funziona ugualmente bene, anche su 446. 446, non 246, ma quella, vabbè, la Diamond ce l'ho anch'io, io ho la, quella grande, già lo sai, e quindi funziona benissimo, già l'hai vista anche tu l'altro giorno. Appunto, se no, così non sta di affarsela lui, eccetera, però... Ripeto, se lui se la vuole fare di propria mano, la può fare, basta rispettare. Qualcuno qua? Onda 18 centimetri, tutti i radiali, e anche quello centrale. Se invece lo vuole fare da un'onda intera, se... La dama va benissimo per forza. Beh, quello sì, è saltato, è così. Boh, se vuole X300 quella che ho io... Io l'avevo pagata 70 euro, ma nella 50 se la porta via. È nuovo nuovo la Miami. Non è che sia vecchia, l'ho pensata neanche l'anno scorso, figurati tu. C'è tre radiolini, e lo stilo in vetrovisina e poi tutto quanto il resto è a posto. Dipende da lui, se la vuole, già l'ho vista quanto è lunga quella che ho io. Dato io c'ho la direttiva, non me ne faccio niente in teoria, capito, tutte antenne VU, basta una. Quello sì, in effetti è così, quando ne hai una basta, non è che... No, io ho sempre quello, io ce l'ho, ma la uso per il ricevitore, basta, è sempre sintonizzata sui ricevitore, è sempre sintonizzata in 2 metri, anche perché quell'antenna è V, no? Ed è fissa da qualche anno, sempre fissa lì, non la tolgo mai. Per cui, sicché quando voglio sentire in 2 metri accendo e sono già collegato in ascolto naturalmente. Per cui va bene così. Però mi ricordo che io un annetto fa l'avevo provata quella su 446 e andava benissimo, non bene, benissimo. No, manca, beh, va benissimo, perché l'ho provata io con questa apparecchio qua, quello che sono adesso, sta storia non me ne segna, quindi va in tutti i posti, il discorso è quello. Solo che io ho messo l'antenna che è attaccata alla mantova, e quindi non è che mi dà questo granché di guadagno, vorrebbe spostata, messa più giù di 2 metri, il discorso è quello, però come antenna va bene. Perché fa VU e nuova che la ricevo io dentro, non è... Aspetta, l'anno scorso, figurati, c'è un anno di vita, siccome c'ho la direttiva con motore e cose del genere, di antenna non me ne faccio niente. Se lavora 50 euro gliela do, io l'ho pagata 70 euro la verità l'anno scorso, quindi già lo sa che è nuova la mia. Quindi se la vuole bene, se no pazienza, le mani di qui dov'è, la smonto, la metto da una parte e va a cuffie, tanto non è che me ne faccio niente. Aspetta, vabbè, aspetta un attimino, dopo ti faccio parlare. Sì, beh, certo, no, ma ripeto, siccome quella VEU arriva sino ai 400 mega arrivano, dunque va bene, anche se non è proprio l'ideale per il 446, però essendo molto vicino va bene. E io mi ricordo che quando l'avevo provata andava benissimo, ripeto. Ma chi sentite Antonello, se ti interessa l'antenna VU, ce l'ha lui 50 euro, lui ce l'ha pagata 70 e te la lascia 50. Ma chi? 50 euro di Radoghio, nuova. Ciao Fla, già lo grido già, no, stiamo parlando dell'antenna VU, mi? Sì, da voi ce l'ho io la Daimo, 150 euro e te la do, nuova. A me non mi serve, cosa me ne posso io, no? La faccio la di X30, vaggio, e poi la uso solo per il coso, in ascolto per il ricevitore, niente di più, poi per il resto non mi interessa. Già ti sento bene, hai visto che l'altro giorno non riuscivo a sentirti, ma oggi ti sento benissimo. Io ero convinto che non mi sentivate, adesso provo a vedere se qualcuno mi ascolta, visto che sto scendendo basso. Vi saluto, che chiudo, ciao Fra, ciao Giulio, ciao a tutti, dai, io esco, alla prossima, domani, ciao. Ok, ciao Lu, alla prossima, ciao Luca, stammi bene. Va bene, c'è anche Graziano, c'è. Avanti Graziano. Ciao Luca, alla prossima. Ok, sto facendo cosa? Riprendi tu Giulio. Ok, non l'hai sentito a Franco, è entrato anche Franco. Va bene Fra, e allora già ti sentiamo, grazie, io ti sento benissimo, non vengo, benissimo. Per cui, meglio di così, cosa vuoi pretendere? Strano, perché l'altra volta non riuscivo a sentirti. E tu non sentivi nessuno, perlomeno a me non mi sentivi. Forse sbagliavi la frequenza e non era sintonizzato bene. No, perché c'avevo problemi con l'antenna, capito? C'avevo problemi sul PL dell'antenna, forse per quello anche non riuscivi a ascoltarmi. Tutto lì. Ma adesso ho sistemato un po' il capo dell'antenna, quindi dovrebbe andare bene. Perlomeno. Non so se Antonio mi ascolta. Vai Antonio, mi ascolti, come sto arrivando a te? Io in fondo scala, sì, ho capito il cavo, ho visto, sono salito sul palchetto una mezz'ora fa, ho capito il cavo della direttiva, ho messo il 58, è perfetto, la zona è zero, non devo stare ogni volta, pigia, vaffanculo, mi aveva girato le balle, adesso almeno tranquilla quell'antenna, l'ho astratta anche, nel caso magari che avesse problemi di acqua e cosa del genere, ho messo un altro isolante, ma non ce n'è nessun bisogno, anche perché gli avevo messo silicone all'interno, Comunque sia, vedo che va bene, non ha nessun problema. Penso che già mi senti bene, meglio di prima. Buonasera a tutti, belli e brutti. A quel bazooka. No, non ce l'ho fatta il bazooka, lo provo domani mattina il bazooka. E, hai capito? L'ho fatto un'oretta fa l'antenna, hai capito? Il cavo ce l'ho detto ancora, la verità, quindi in pratica li metto il cavo dove c'era la canciata la direttiva, la cancia bazooka. E così faccio la prova e vediamo un pochettino, li metto due gaffe e almeno vediamo come esce. E poi facciamo la prova. Tipo, Io devo chiedere, a Torino, nel quattro io potevi passare, perché sto provando un'antenna che ho costruito per gli 11 metri. E volevo sapere appunto se vi ascoltavi bene anche quella frequenza, capito? E vabbè, passa lì, metto 14, così. Già più, un attimo, se vuoi passare anche tu, nel 14 un attimo è proprio questa antenna verticale, vedi come va. Ok, dai, facciamo la prova, dai. D'accordo, Fra, siamo qua. Ma chi si ho, metti 14, dai, passa. Via, dai. Aspetta che passi il 27. Ho agganciato la luce, adesso se non ci vedevo una fanculo. Due minuti. Che calore siete? Su 14, a Torè. Ok, adesso ti chiamo. Paola, signor Marchisio. Drommi, che mamma ha fatto gli gnocchi. Sarà bene. Sì, bello bene. Drommi, catta, bebù, abedora d'entra. E allora, a chi sei diventato un pipistrello? Uno, catta, bebù. Ma chi se deve essere separato? Da io sei stata sopra e non si sente più. Ma chi? Non rispondi, no. Ma chi te sei andato su terra, anzuga? Ma è entrato? Sì, è entrato, c'era Giulio, Franco, Gio Maria, è venuta gente. Tutti spaesati, sulla luna sono saliti. Sulla luna, catta, bubù. Vabbè, pazienza ci vuole. Vuol dire che sta mettendo a posto. Stava facendo la prova per se riuscito a sentire a concugno. E bella luna. E vuol dire se ponendo a posto l'antenna, se ponendo a posto. E Luca è pascolendo con Lucani, io. Sì, e ripigliene Lucani, con Beh, sopra il tetto ancora. Su questo buco. Chi è sopra il tetto? Ah! No, ne è entrato uno, ha detto che era sopra il tetto. Chi è sopra il tetto? Dove sta piazzando l'antenna, non so chi sia. No, deve essere che la sta controllando, Bacchisio. Ah, Bacchisio, Andà bene. Allora, grazie. Mi sto guardando Luca e Giorgio, Lucani. E lo sta riprendendo. Sul telefonino lo sto guardando. Ah, Luca, già mai dai, ho il telefonino. Sì. Tesla! Egiù! Anche se è sordo, Lucani! Ma cosa è sordo? Che non le rispondi? Anche lui chiama e non si gli dà il manco! Chi c'è? Fiaghenni in carrina! Quando è Fiaghenni è cosa, non intende a nessuno, hai compreso? Peggio di me, uè! Anche se si mangia di tutto, come mangia tutto! Con che se va vendendo? La pasta agli olio mi piace, anche se chi sai che fa, Luca. Chietta che andiamo che andiamo. I loghi, la piazza di loghi, la vai ad alzare la scuola. pattuglia. Ma cosa, Gian Maria non l'ha inteso, no? C'era stasera però qui, ti dici stai e non puoi entrare. Andà bene. Guarda che va gente in casa. Ancora io su, amici, mi riesci. No, che devo essere vicino a San Casuglia, caro. Caro di della Pistina. Allora, c'è la mia Udani, Saluta la città locale, c'è Casuglia. Oggi lo qui, venne cose, rovelli, purtroppo, sto facendo cosa, poi sono uscito e sono rientrato adesso. Grazie, io mi sono capito di rudere il giornale di Rai 3, il telegiornale sardo. E adesso chiudo, là. Ciao Tore, a domani, là, se coincido. Ciao a tutti che in ascolto, a domani. Ciao Graziano, buonasera. Ciao, ciao. Bello signor Bacchi, e allora? Sì Tore, buona serata. E sul 20, sul 14 siamo. Il 27. Oh, e come ti mai? C'era Franco, deve fare delle prove, allora sono un po' stati chiusi. No, passo lì, dai.